e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Ricorderanno questa sigla i nostri ascoltatori. A noi ha regalato subito un sorriso. È vero. Il pranzo è servito. Allora, sono solo le 10.30, ma chissà se ci state già pensando, se l'avete già progettata, preparata, se è un'abitudine costante e immutabile ogni giorno da anni e anni, oppure se aspettate che arrivi questo momento per uscire velocemente dall'ufficio e poi improvvisate senza pensarci troppo. Ci riferiamo alla pausa pranzo. 800 24 00 24, raccontateci, prendete subito il telefono in mano, come sarà la vostra pausa pranzo di oggi. Da soli, con i colleghi, in mensa, al bar, con una schiscetta, al parco, passando da casa, per noi è tutta in giro per il decumano di Expo 2015 con Nicoletta Carbone, perché anche oggi siamo in diretta da qua naturalmente. E staremo qua fino a venerdì quindi compreso. Tutta la settimana potete venire a trovarci. Esattamente. Noi vi aspettiamo. Potete scriverci invece della vostra abitudine pausa pranzo anche al 349-238-6666 sui social, a partire dal sito di Radio 24. Vedremo quale sarà la più originale. Intanto noi possiamo dirvi che, secondo l'ultimo aggiornamento dell'Osservatorio Nazionale di Federconsumatori, un italiano su tre si porta il pranzo da casa. Siete tra questi? La causa, naturalmente, sempre la crisi. Sempre Federconsumatori registra un aumento medio dello 0,6% delle pietanze. L'avete notato anche voi. Quanto spendete per un pranzo nelle giornate lavorative? E usate i buoni pasto, perché anche su questo tema torneremo tra poco a Cuore Denari qui da Cibus e Italia presso Expo. Deborah, la pausa pranzo è davvero un tema perfetto, sì, per Cuore Denari, perché la ricerca che hai citato fotografa un fenomeno in crescita negli ultimi anni. Portarsi il pranzo da casa, d'altra parte, è una scelta comoda, sana, felice ed economica, perché è vero che fa risparmiare denaro, ma in alcuni casi fa anche guadagnare salute e anche linea. Oggi ci occuperemo anche di chi mangia però in mensa, al bar, si concede anche il ristorante. Vogliamo un po' declinare e organizzare la pausa pranzo in base al profilo dei nostri ascoltatori, che invitiamo a chiamarci all'800 24 00 24, perché è tornato a trovarci ed è qui ad Expo, per cui potete conoscerlo anche di persona. Un'occasione unica, direi, unica, irripetibile. Il dottor Attilio Speciani, specialista in allergologia e immunologia clinica Milano. Buongiorno dottore, bentornato dopo la pausa estiva a Cuore Denari. Buongiorno a tutti voi, bella questa occasione tutti insieme qui ad Expo, è vero, positivo. È vero. Ci avevamo provato anche l'altra volta, tra giugno e luglio, avevamo mancato l'occasione di averlo qua. No, era durante i congressi di allergologia mondiale, no? Cioè era un po' difficile. Era Cuore Denari. Ma già da allora l'abbiamo prenotato per questa settimana. Allora, comunque lei oggi paga pegno e ci organizzerà delle pause pranzo molto diverse, perché a ciascuno la propria pausa pranzo in base non solamente al tempo ma anche al profilo personale, per cui c'è lo sportivo, c'è chi deve perdere peso, c'è chi teme il problema biocco, chi ha la digestione difficile, dottor Speciale. Cioè, quindi mi sembra di essere in studio come tutti i giorni, cioè ognuno con il suo problema, ricerca dell'individualità e risposte congrue, perché uno, se poi non si sente dare la risposta giusta che funzioni, ecco, poi si arrabbia. Va bene, deve anche dare ottimo la risposta che va bene. Però noi daremo la risposta, ma oggi è tornato, perché quando Manigote non viene mai. No. Quando alla fine di luglio abbiamo dedicato una puntata al metabolismo, a riattivare il metabolismo, e abbiamo dato la possibilità, sì, ai nostri ascoltatori di ricevere a casa il libretto scritto dal dottor Speciani, ha creato un idea, po' di serio. Ma come si dice? Ma come ti è venuto in mente? Ecco. Perché siamo stati inondati da inondate richieste. Allora, c'è chi lo noi cerca... quante ne abbiamo? Sì, c'è chi lo cerca su ovunque, internet. Su internet, esatto. C'è invece... chi mi dice me lo faccia pagare, ma me lo mandi. Allora, adesso vediamo quanti ne abbiamo. 2, 4, 6, no, veramente, 8. Infatti. No, allora, voi chiamateci. 800 24 00 24, dottor Speciani, chi si merita di ricevere a casa l'opuscolo controllare il metabolismo, controllare il peso attivando il metabolismo? Ma secondo me, se qualcuno poi chiacchiera, racconta quale può essere, io la butto lì come, sì, tema, perché ne parleremo anche, quindi state attenti durante la trasmissione. Se capita di dover saltare il pranzo, capita, perché succede, no? Sì. Di avere posso un impegno. Posso dire che mi è successo ieri, che mi è volato via per tutta una serie di... Ecco, bisogna sapere, e io sono convinto, moltissime donne hanno in tasca, nella borsetta, da qualche parte, per le emergenze qualche cosa che serve per... anche per il pranzo che viene saltato, bisogna avere in tasca qualcosa. Chi mi dice la cosa più furba, che secondo me è qualcosa che bilancia carboidrati, proteine e in modo corretto e giusto, secondo me si merita un librettino. Allora, 800 24 00 24, vi aspettiamo. Di pausa pranzo parleremo anche con un altro amico di Cuore Denari, sì, che scrive sul Daily Lab, il dottor Francesco Aquiler. Ne approfitto per invitarvi sempre a fare un saltino sul nostro Daily Lab di Cuore Denari, dove ogni giorno i nostri esperti vi suggeriscono e vi danno idee e consigli per stare bene. Il dottor Aquiler, che è presidente dell'Associazione Italiana di Psicoterapia Cognitiva e Sociale, ci raggiungerà a partire dalle 11.45 e ci aiuterà a capire che cosa rappresenta la pausa pranzo per noi e soprattutto come imparare a gestirla al meglio per il nostro benessere psicologico anche. Quindi vi invitiamo ad andare sulla nostra pagina Facebook e a rispondere al quesito proposto proprio dal dottor Aquiler. Che cos'è per voi la pausa pranzo? Andate su Facebook, compilate e poi chiamateci, prenotatevi alle 11.45, il dottor Aquiler si occuperà del vostro caso. Avevo finito di pranzare che erano le 8 di sera, mia madre appena sentito la sedia che si sfilava da sotto il tavolo fa: ferme tutte che la cena è pronta. Non mi lasciano parlare con il dottor Speciani perché diciamo non l'abbiamo ancora salutato il nostro tecnico straordinario con tanto di barba. Vediamo arrivato se lo per merita noi il saluto, aspettiamo fino alla fine perché deve comportarsi anche bene. Arrivato per noi direttamente da Roma il nostro Valerio, ma sì, da Valerio Rocchetti. Molto bravo, lo ringraziamo perché vabbè, ci sta adesso sopportando. Non t'allargare, gli regaliamo il libro sul metabolismo, ma lui è magrissimo, ha super accelerato. Ma non solamente quelli un po' morbidi hanno bisogno, bisogna... Stiamo ricevendo in questo periodo una serie di domande, di richieste proprio di persone che capiscono l'infiammazione da cibo, capiscono la reattività agli alimenti, capiscono che serve un profilo alimentare e dicono: ma io in realtà ho l'effetto opposto, cioè quando mangio male perdo peso e non metto piede. Il corretto è tenersi in equilibrio e le persone possono sia ingrassare da un lato sia ricevere segnali di pericolo ed effettivamente deperire malamente o perdere muscolo, avvizzirsi. Brutta come frase, però rendo l'idea perché le donne la capiscono benissimo cosa intendo. Allora, ci sono delle iniziative sono molto carine che abbiamo un po' raccolto girando un po' su internet, pausa pranzo, un po' divertenti, un po' no, diverse dal solito. Ad esempio a Torino esiste un'iniziativa che permette, mentre noi mangiamo tranquillamente, di avere due attrici che ci leggono dei libri. E libri, sai che è bellissimo sentire leggere un libro. Oppure a Milano c'è questo centro benessere dove poter godersi un massaggio al viso di 30 minuti e poi ritorni in ufficio e le amiche ti dicono: ah, ma dove sei stata? Hai mangiato il cibo miracolo? Ma mi chiedo che pausa pranzo abbiano le persone che possono godersi questi momenti. Perché... Non fare subito la donna di denari. Su, 30 minuti anche tu ce li hai. Ce li abbiamo anche noi, 30 minuti. È che non riusciamo... non riusciamo proprio a godercelo, capisci? A quagliare, come si dice. Comunque, allora, magari è un buon progetto, un buon proposito per l'anno. Esatto. Allora, quello di cui parliamo oggi, come dal punto di vista economico potrebbe apparire forse un tema di secondaria importanza, invece non lo è affatto e i nostri ascoltatori lo sanno bene. Ci sono aziende e lavoratori che negoziano molto attentamente su questo aspetto per dare dignità e adeguato valore economico a questo momento della nostra vita quotidiana, appunto quello della pausa pranzo. Proprio pochi giorni fa è stato diffuso l'Osservatorio Nazionale di Federconsumatori che richiama l'attenzione su questo tema anche purtroppo alla luce della crisi del mercato del lavoro. Perché? Perché molte aziende chiudono i servizi mensa oppure ne aumentano il contributo che deve mettere il lavoratore, quindi è un costo per i consumatori che va a sbilanciare il bilancio. Tanto che, come ci siamo soffermati a lungo nella prima parte della trasmissione, in questa fase iniziale della trasmissione, appunto abbiamo riconosciamo che un numero sempre maggiore di persone si confeziona il pasto a casa e lo porta al lavoro. C'è poi tutto il capitolo dei buoni pasto, su cui siamo già andati a Cuore Denari qualche giorno fa. Molti ascoltatori ci hanno chiesto di tornarci perché c'è una novità legislativa che li riguarda, ma noi partiremo da questo bilancio su quanto costa la pausa pranzo agli italiani con Federconsumatori. Ringrazio il vicepresidente di questa organizzazione che è Sergio Veroli, un altro amico di Cuore Denari. Sì, buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, io intanto richiamo l'attenzione anche dei nostri ascoltatori, a cui chiedo di continuare a raccontarci la pausa pranzo, mensa, bar, schiscetta, quanto spendete. Cercate di rientrare anche nel buono pasto che vi riconosce l'azienda, oppure dovete obbligatoriamente sforare, perché ha un valore, naturalmente non sempre il pranzo che vogliamo consumare rientra in questa cifra. E come e quanto è cambiato il vostro budget per far fronte a questa spesa? Abbiamo trovato peraltro ieri questa notizia di questo ragazzo di Lugano, in realtà non l'abbiamo proprio appurata completamente, quindi non so se la dinamica sia stata esattamente questa. Pare che questo giovane 22enne che stava consumando la sua pausa pranzo nella propria auto, lavorava perché poi è stato licenziato come agente di sicurezza di un'azienda del posto, l'azienda lo ha pizzicato che appunto consumava in auto il suo pasto veloce e l'azienda gli ha contestato. Si era anche apparecchiato, no? Sì, sul volante, pensa tu, già poverino, già mangi in condizioni improbabili. Morale, l'azienda gli ha contestato che questo atteggiamento danneggiava l'immagine dell'azienda e lo ha messo per strada. Beh, speriamo che non sia vero quello che è successo. Noi andiamo ai nostri dati di Federconsumatori. Veroli, allora, come avete condotto questa... mi stai per caso facendo segno che è ora del traffico? Sì, e prima di andare ai dati andiamo a sentire che cosa succede sulle strade e poi andiamo naturalmente subito ai dati. Mi hai nascosto l'orologio lì dietro, non lo vedevo. È il dottor Speciani che l'ha nascosto. Sempre colpa mia. Traffico. Fluentis, il gestionale che in un'app ti guida nella crescita del business. Scoprilo. Fluentis.com vi presenta... Cuore e denari. Tu non l'hai capito, tu non l'hai capito. E stringi i denti dietro un tavolo, dentro un ufficio, senza nemmeno avere il tempo di guardare fuori. Allora, torniamo a parlare di pausa pranzo. Ve lo abbiamo lungamente preannunciato questo argomento nella prima parte del nostro programma. Sergio Veroli, presidente di Federconsumatori, l'osservatorio nazionale che avete condotto qualche tempo fa, qualche giorno fa, ha monitorato proprio le abitudini degli italiani in termini di pausa pranzo, ma naturalmente, essendo una rilevazione condotta dalle associazioni dei consumatori, avete focalizzato l'attenzione su costi e dintorni. Veroli, allora, che cosa avete scoperto, quanto spendono gli italiani per questo momento importante della giornata? Ma è importante che ci sia un aumento basso, 0,6%, va bene. La cosa invece significativa è notare che negli ultimi anni il prezzo della pausa pranzo è aumentato di circa il 144%. Non credo che gli stipendi siano aumentati di questa somma. Non ci risulta, vero? Quindi più 0,6% su base annuale. Su base annuale. Negli ultimi 12-13 anni è aumentato del 144%. Ci sono prodotti ci quantifica, che sono... esatto, un po' meglio. Insomma, quindi di che cifre stiamo parlando? Da 5 euro spendono il 144% in più? Stiamo parlando di un pasto composto da acqua, un piatto di pasta, un dessert, un caffè per un totale di circa 13,50, va bene? All'interno di queste abbiamo il caffè aumentato negli ultimi anni del 77%, l'acqua del 246%, una pizza del 162% e un piatto di pasta del 184%. Questo negli ultimi 12-13 anni. Il problema è che in questi stessi anni il potere d'acquisto non è aumentato, ma molto spesso è diminuito e l'occupazione è diminuita. Quindi la tendenza a portarsi il passo da casa sta aumentando. Mi sembra stranissimo quello che è successo a questo ragazzo di 22 anni. È una follia che uno licenzi un lavoratore perché si è portato un passo da casa e lo consumi in una macchina. Danneggia l'immagine esatta dell'azienda. L'abbiamo letta su qualche sito. Se la dinamica sia stata esattamente questa. Peraltro assunto da pochissimo, quindi era anche un osservato speciale. Appunto. Esatto. Quali prodotti sono aumentati di più? Sono aumentati l'acqua, sono aumentati il primo piatto, e si è aumentato la pizza, è aumentato il caffè, è aumentato quello che è aumentato di meno, ma era già caro prima, insomma. Certo. E quindi sostanzialmente un pasto costa 13,50 euro, se moltiplica per 22 giorni lavorativi, 23 arriviamo a 280-290 euro, che allora, è una poi cosa, peraltro stavo pensando, può essere un fattore di comodità, ma non è poi detto che sia una questione così negativa, Nicoletta, che ci si debba portare il pasto da casa. Certo, la sera ti devi impegnare e prepararti un pasto equilibrato. Il problema è anche che il pasto da casa uno lo deve consumare nel posto di lavoro. Molto spesso uno ha voglia di uscire, di cambiare aria, questo è l'altro aspetto. Al di là di mangiare una pizza o un'altra cosa, il problema è di uscire dal posto di lavoro, per cui incide anche questo, se no il passo sulla qualità sarebbe... diciamo di vita complessivo. Infatti per questo volevamo anche coinvolgere, dottor Vero, i nostri ascoltatori a raccontarci che cosa rappresenta per loro la pausa pranzo, e la commenteremo appunto con il dottor Aquilar. C'è l'aspetto socializzante, esatto, di stacco, ma anche, dottor Speciani, ci sono alcuni ascoltatori che già ci segnalano che la loro sicuramente è una scelta per, dettata da motivi di risparmio, ma anche per assicurare un pasto fatto per bene, quindi equilibrato, magari utilizzando anche dei prodotti che nei bar non sono così facilmente, no, recuperabili. Penso ad esempio chi ormai si è convertito al pane integrale, in molti bar i panini sono ancora preparati con il pane bianco, chi ha ridotto il consumo di salumi affettati fa fatica a trovare panini con la presenza di verdure grigliate, no. Quindi c'è una scelta, una richiesta anche un po' di benessere. Infatti, questa richiesta è forte, devo dire, in altre analisi e valutazioni, al di là del rapporto con il costo, è emerso comunque un aumento di una scelta più consapevole legata ai propri bisogni individuali. Tra l'altro io lavoro sia a Milano che a Londra e devo dire che operativamente quando adesso Nicoletta diceva il pane integrale, a Londra fa parte della prassi avere il pane integrale, poi se vuoi il pane bianco lo devi chiedere specificamente. Allora questo è ovvio, che quindi quando vedo o discutiamo con le nostre persone che vengono a imparare come mangiare, il fatto che si portino la cosiddetta schiscetta da casa ha un significato profondo, perché corrisponde ad una scelta, spesso ad una scelta anche economica, perché si possono riusare i residui della cena della sera precedente. Certo. Ma soprattutto ci sono degli elementi che rispondono positivamente a quelli che sono i bisogni individuali. Quindi da un lato io dico complice la crisi c'è stato anche un miglioramento del tipo di scelte nelle schiscette che vengono portate, e questo è un dato positivo. Diamo almeno un valore un valore buono. Ricordiamo il domandone di oggi per ricevere a casa: controllare il peso attivando il metabolismo, e qual è quell'ingrediente, quell'alimento da tenere in borsa? Lei si è rivolto alle donne, ma potrebbero portarselo anche assolutamente gli uomini, naturalmente, che è un prodotto che è, tra i suoi nutrienti trova un perfetto equilibrio. Esatto, che significa proprio ho saltato, perché ad esempio faccio... Mi sto arrovellando la testa. Salto, ma se so come compensare, quindi mi equilibro. La domanda però è anche capire, sono le 10.53, a questo punto della mattina che cosa ci dice la nostra pancia? Sì, siamo molto affamati, siamo in calo di energia, potremmo assolutamente, no, ma anche saltare la pausa pranzo perché non abbiamo nessun richiamo, o invece... Ecco, però io su questo, prima, mentre Nicoletta e Deborah dicevano, se alle 10.30, quando abbiamo iniziato, anzi 10.31, per caso c'era una fame già presente alla ricerca del cibo, la mia considerazione dal punto di vista di esperto della nutrizione è: c'è un problema. Cioè, se alle 10:30 in realtà già hai fame, vuol dire che hai mangiato solo carboidrati, vuol dire che al mattino o hai saltato la colazione o hai mangiato solo degli zuccheri, che quindi hanno determinato poi un calo glicemico. Ci si deve ragionare. Allora, tra l'altro, sempre scandagliando gli aspetti economici, la vita economica della pausa pranzo, sì, abbiamo un minuto di tempo, però un piccolo commento a Sergio Veroli conclusivo riesco a farlo fare. A parte il lato esercente, ovviamente i commercianti, i ristoratori, i gestori di bar cercano di attrezzarsi al meglio per continuare a richiamare i consumatori con magari panini più fantasiosi, offerte, tessere fedeltà e quant'altro, ma in realtà un altro trend interessante è che stanno fioccando i prodotti per scaldare, contenere, confezionare i propri pasti, no? C'è un altro mercato che si sta muovendo, vero? Lì, in un 30 secondi. Che siano un po' più eleganti e più presentabili rispetto a quelli che esistevano prima, dovendoli consumare in ufficio devono essere perlomeno prodotti che siano presentabili. L'altro fenomeno, mi volevo riallacciare a quello che diceva il vostro ospite, è che essendoci una forte concorrenza, il rischio è che ci sia anche un problema di qualità che possa decadere. Oggi tutti vendono tutto, dai bar ai negozi alimentari, eccetera, tutti offrono piatti di pasta, la cose, la lasagne, eccetera. Quindi c'è un problema anche di costi, di qualità e secondo me di cura nel fare queste cose. Quindi portarsi qualcosa da casa ha un senso anche dal punto di vista proprio fisiologico dell'igiene e della qualità dei prodotti. Benissimo, allora intanto noi andiamo alla nostra prima pausa. A proposito di pause. Esatto, vediamo se possiamo consumare anche un piccolo spuntino, magari un po' di noci con il dottor Speciani. C'è il giornale radio, ma noi torniamo subito dopo, tra poco. Il segnale orario vi è offerto da Gran Moravia, con l'etichetta multimediale, ti fa visitare la sua filiera ecosostenibile. Sono Maria Latella e la domenica mattina finora potevamo incontrarci in TV. D'ora in poi invece ci troveremo anche su Radio 24, ogni domenica mattina alle 10, per parlare di donne perfette, imperfette, aspiranti alla perfezione e di come ci vedono gli uomini. Vi aspetto ogni domenica mattina alle 10 su Radio 24. E denari. Salve, che prendete? Io prendo il numero 3. Io l'insalata dello chef, ma con olio e aceto a parte, poi la torta di mele. Chef e torta di mele. Ma la torta la voglio riscaldata e non ci voglio il gelato sopra, lo voglio al lato. E che sia di fragole e non di crema, se possibile. Se no, niente gelato, solo panna. Ma panna vera, se è in lattina, allora niente. Chissà se vi riconoscete. 800 24 00 24, continuate a raccontarci la vostra pausa pranzo, mensa, bar, schiscetta, quanto spendete. Cercate di rientrare nel buono pasto che vi riconosce l'azienda, dovete obbligatoriamente sforare. E poi come la componete la vostra pausa pranzo? Che cosa mangiate? E in base a quali criteri scegliete gli alimenti da portare a tavola o sulla vostra scrivania? Dottor Speciani, lei qua ci deve dare una mano. Gli abbiamo già anticipato ai nostri ascoltatori che se abbiamo quella sensazione di fame a metà mattina, qualche cosa abbiamo sbagliato nell'iniziare la giornata con una prima colazione che evidentemente non ci fornisce tutto quello che è necessario per andare avanti. Ma se la prima colazione, come lei ci ha insegnato tante volte, è il pasto più importante della giornata, la pausa pranzo, la pausa di mezzogiorno, l'una, che ruolo riveste nell'economia della nostra giornata? Dunque, nella misura in cui la pausa pranzo è rappresenta un pasto importante, quindi un pasto in cui si mangi positivamente, come è stato per tanti anni, perché esisteva la prima colazione, un pranzo ricco e poi una cena che era decisamente povera nell'insieme. Oggi c'è stato questo glissare verso una situazione in cui la gente trasferisce sulla cena, quindi in un orario tardivo, quando il metabolismo in realtà, anziché pronto a consumare, è molto pronto a assorbire. Allora, dobbiamo, perché questo fa parte un po' della nostra prassi, i nostri ascoltatori lo sanno, per come le notizie scientifiche devono sempre calarsi nella realtà, nella concretezza, e Radio 24 questo lo mantiene sempre. Dobbiamo capire che se c'è una prima colazione positiva e abbiamo comunque la cena come momento sociale, dobbiamo sicuramente fare in modo che la cena non sia eccessiva e quindi cercare di mantenere anche questo pranzo. Io sono profondamente contrario sulla ricerca degli spuntini a metà mattina, a metà pomeriggio, cioè questa indicazione che ogni tanto compare dei cinque pasti al giorno, dei cinque assunzioni, è in realtà profondamente critica, perché c'è un ormone particolare che si chiama, quando lo dico mi ridono sempre, si chiama glucagone, mi dispiace per il suo nome, lo diciamo, non c'è nessun il nostro grande amico, che inizia a, dopo 2 ore e mezza circa di digiuno, inizia a consumare il grasso per tenere la glicemia ad un buon livello. E francamente, quindi, è quello che ci fa dimagrire. Allora, nel momento in cui noi, appena iniziamo ad avere fame, dopo 2 ore e mezza facciamo uno spuntino, ecco che da un punto di vista pratico impediamo l'azione di questo simpaticissimo ormone e quindi lasciamo lavorare il glucagone. Lasciamolo lavorare. E che significa? Ottima prima colazione, pranzo se è possibile corposo, buono, in cui ci siano ben bilanciati carboidrati, proteine e grassi e frutta e verdura, e dall'altra parte la cena tendenzialmente leggera. Siccome poi la gente appunto ha questi momenti di cena che diventano sociali, tende a fare uno skip. Allora, il pranzo. Questa cosa ci porta tragicamente, e ne parleremo magari dopo, avremo modo di darne un accenno. In realtà se uno mangia una prima colazione alle 7:30, 8, 8:30 del mattino, in realtà le 12 ore, se uno dovesse fare un salto continuativo, non sono sufficienti ad attivare delle azioni dimagranti importanti che intervengono dopo 15 ore di digiuno. È quello che oggi si chiama lo short fasting, cioè il digiuno breve. Allora, il mio suggerimento è che questo tipo di scelta deve essere fatta, poi dopo ne accenneremo, passando la notte, perché a quel punto uno può, anche volendo, quando si dice ogni tanto saltare qualche pasto, io preferisco la vecchia abitudine di andare che a letto senza cena. A letto senza cena, sia come punizione, ma in realtà magari a volte è un beneficio per chi deve riequilibrare il proprio metabolismo. Quindi io... Oppure anticipare di molto la colazione, lasciare un intervallo di almeno 15 ore tra la colazione e la cena, potrebbe essere una soluzione. Sì, è una soluzione, però nel momento in cui le persone, se una persona è abituata a farlo, è una condizione gestibile. Se una persona non è abituata e deve lavorare, pensare, guidare una macchina, eccetera. Posso chiederle rischio... una cosa, dottor Speciani? Perché a me ci sono delle cose che non mi tornano. Perché per anni io ho sentito dire da suoi colleghi: mi raccomando, non saltate i pasti, non saltate i pasti perché l'organismo si ricorda, e per cui, dato che noi siamo abituati a siamo programmati per resistere al digiuno, ai periodi di carestia, se l'organismo riceve dei messaggi di, tra virgolette, carestia, si attrezza e quindi tutto viene rallentato. Adesso si parla di dieta mima digiuno, saltate una volta. Ecco, che cosa è cambiato o che cosa non ho è capito cambiato, io? No, è bellissima questa domanda, perché in realtà quello che è cambiato è una migliore conoscenza di quelle che sono le citochine e i messaggi che nascono nell'organismo. Man mano che si può andare a studiare quello che avviene, si è scoperto che c'è una profonda differenza fra il digiuno breve, diciamo, quindi 15 ore di digiuno, cioè, e il digiuno prolungato. Col digiuno prolungato scatta tutto quello che è il meccanismo che si diceva prima, che giustamente è stato detto, quindi c'è, l'organismo si sente impaurito, ha paura, certo, di morire di fame e mette in moto dei meccanismi di risparmio. Si è scoperto che, io lo immagino dal punto di vista evoluzionistico, pensando al cacciatore o al raccoglitore di patate, voglio dire, nel paleolitico, non patate non c'erano, voglio dire, però nel paleolitico, quindi 700-800 mila anni fa, che in realtà restava fuori un giorno, e probabilmente noi siamo organizzati dal punto di vista evoluzionistico per riuscire a superare un giorno e mezzo di mangio poco e addirittura salto il pasto, ancora mantenendo l'efficienza. Questi sono studi documentati. Oggi sappiamo che 15 ore di digiuno, 15 e non proseguite, hanno un'azione lipolitica, che alle donne piace tanto questa roba, vuol dire che scioglie il grasso, ma anche agli uomini, anche assolutamente agli uomini. Sì, sì. E che può quindi funzionare. Diciamo che c'è proprio una, nel momento in cui non ci si basa su acquisizioni che restano un po' stantie. Noi pensiamo a quanto sono obesi gli americani, gli statunitensi, in realtà, nonostante studi sulle piramidi alimentari fatte in un certo modo. Poi ad un certo punto finalmente si è detto: ma ragazzi, se la gente continua ad ingrassare nonostante i consigli che gli diamo di ridurre i grassi, di mangiare tanti carboidrati, di fare una serie di cose, probabilmente qualche errore c'è. E per fortuna la scienza è in grado ogni tanto, è un po' lenta, però di ripensare se stessa e di adattarsi alle nuove convinzioni. Stavo pensando agli americani, sono stata a San Diego, che invece è veramente la patria del benessere fisico. Avevo visto tanti di questi ragazzi stupendi, una cura alla forma, all'alimentazione incredibile, molto esasperata in quell'area della California. Là c'è un'area anche del biologico, dell'organic. Se uno va in California, a Manhattan, trova le persone che si tengono. Che ma nell'Iowa, magari bombardoni. Allora, devo dire un po' di cosine. Prima di tutto, dobbiamo salutare una nostra grande amica che ci sta seguendo e ritwittando su Twitter, Paola Saluzzi, SkyTG24, che chiede: cosa devo fare per avere il libretto sul metabolismo del dottor Speciani? Camminare come funambola fra le guglie del Duomo di Milano? Certamente, però poi a piedi deve venire qua a Radio 24 a trovarci qui a Cuore Denari, per e cui noi l'abbracciamo e le regaliamo anche il libretto. Prima cosa. Seconda cosa, posso spendere una parola? Sì, dai, glielo mandiamo. No, dai. Anche perché Paola Saluzzi è una delizia, una giornalista ingambissima. Esatto, è molto bella, forma fisica per lei, insomma, non è certamente un problema. Seconda cosa, budget di spesa per la pausa pranzo. Noi fra qualche minuto con un'esperta di altro consumo parleremo delle novità legislative che riguardano proprio l'utilizzo dei buoni pasto. È arrivata con l'ultima legge di stabilità una detassazione di questi strumenti che utilizziamo per andare a consumare fuori dalla sede di lavoro il nostro pasto, appunto, quotidiano, il nostro pranzo. Ci sono però delle novità che hanno un po' rimodulato la possibilità di utilizzare i buoni pasto per fare la spesa, perché sai che molti non è che li utilizzano solo per quello, ma lo portano anche al supermercato, e adesso ci sono delle novità che hanno un po' anche indispettito i consumatori. Torneremo su questo argomento. terza cosa, se vuoi posso aprire le porte ai nostri ascoltatori. Mi piace, certo. Intanto ricordiamo, andiamo, il numero per superare la barriera rosa, perché c'è Rosa, ma ci sono naturalmente le nostre amiche del centralino, sì, è tutto un centralino Nicole, femminile, Sabrina, e tante che salutiamo altre. 800 24 00 24, veniamo chi è venuto a trovarci. Intanto è venuta Carla dalla provincia di Pavia, che chiama per il libretto della dieta, lo definisce, dottor Speciani, ma non è così, è il nostro libretto del metabolismo. Carla, benvenuta. Buongiorno, Carla, grazie per avermi chiamata. Grazie sono a lei, Carla, che voce simpatica. Sì. Ho 72 anni, sono sovrappeso perché peso 75 kg e sono alto 1,67. Mia figlia a tavola, se può, mi ritira tutto, mangiare il meno possibile, però io di nascosto, quando lei non c'è, la buffo. E che la monella! Buffo anche male. Eh sì, è così. Mm. Però, niente, sto attenta. Per esempio, quando c'è lei a pranzo, insalatone, niente pane, insalatone con tutti i semini, con magari gamberetti. Con tutti i semini, però deve sempre portarsi dietro la figlia, perché appena la figlia gira l'angolo, si svaligia la dispensa. Allora, sicuramente il libretto di controllare il peso attivando il metabolismo può essere utile, perché non è mai troppo tardi. Assolutamente, per dare una mossetta. E secondo me, in una situazione, vedete, quello che è emerso da quello che racconta è quello che si chiama craving, cioè una buffata, una ricerca un po' spasmodica. Questa cosa avviene quando si danno i segnali sbagliati, per cui io sono convinto, ad esempio, che rispettando una scelta con i dolci, magari 2 o 3 volte alla settimana, ben fatti, secondo la tradizione, vigevano, signore 72 anni, se non c'ha della tradizione storica, certo, deve sicuramente impostare una prima colazione e bilanciare, come è scritto nel libretto, una divisione in 3 del piatto, quindi dire proteine, carboidrati e frutta e verdura, e ridurre lo zucchero come dolcificante. Io sono uno favorevole allo zucchero nel dolce, quando è un dolce complesso fatto secondo la tradizione. La dolcificazione rischia, e secondo me una donna che racconta queste cose probabilmente di nascosto zucchera quel poco, lei dice. Perché mi sta guardando? La sto guardando? No. Deborah, a me è caduto l'occhio perché è una bella donna e quindi certo, io... è gradevole vederlo, ma inizi quindi piccoli passi, proteine al mattino perché... insieme al resto. Certo. E poi il piatto diviso in 3. E il piatto diviso in 3. Che... E poi ci racconterà. E poi ci racconta, certo. Andiamo a Carlo da Roma invece adesso. Carlo, benvenuto, che si prepara il pasto a casa. Ma guarda che ometto simpatico che abbiamo. Buongiorno a voi, salve. Sì. Io mi preparo, diciamo, il pasto da casa fondamentalmente perché ho esigenze di tipo sportivo, quindi io ho questa, chiamiamolo così, maledetto vizio della corsa 5 volte a settimana, e quindi benedetto modo, non è maledetto, è benedettissimo, sì, ormai è diventato una droga, sono 10 anni che corro, le endorfine cioè, esatto, e che cosa mangia il nostro runner? Mi preparo sempre una porzione di carboidrati poco cotta con l'olio crudo, la mante fredda per non aumentare la massa glicemica. Mi porto un po' di semi da casa. Io non la sento bene, non so se la sta utilizzando l'auricolare, se lo metta gentilmente, Carlo, un po' vicino alla bocca. No, sono fuori, sono fermo in un autogrill e sto divento. Benissimo. Allora, carboidrati conditi con olio crudo, poi? Molto al denti, freddi per non aumentare la glicemica, sì. E sono veramente economici. Io a casa la sera quando mangio faccio una per la famiglia. Comunque Carlo, guardi, andiamo subito ai suggerimenti del dottor Speciani per chi si prepara il pasto da casa ed è un grandissimo sportivo. Dipende dall'orario in cui poi lui fa sport. Facciamo le due versioni. Perché ad esempio, classicamente una persona che vada ad allenarsi fine lavoro, 6, 5, 7 di sera del pomeriggio, in realtà può avere tranquillissimamente un pasto pieno e compatto, ricco fondamentalmente, un pranzo ricco. Un po' la regola per fare attività sportiva è scorte piene e stomaco vuoto. Sembra però vuol dire aver mangiato almeno 3 ore prima. prima, no? 2 ore e mezza prima, 3 ore prima, qualcosa che possa mantenere le scorte ben bilanciate, e però effettuare l'attività, soprattutto se intensa, in modo decisamente vuoto di stomaco. Se invece uno fa una leggera pedalata in bicicletta per mezz'ora, può anche mangiare mezz'ora prima, non c'è nessun tipo di problema, ma parliamo di un runner, quindi probabilmente che fa una terapia, un tipo di impegno importante. Perché anche questo forse con Fulvio Massini l'avevamo affrontato di argomento, sì. Mangiare e anche, no, con, prima della e anche con Luca Speciali, esatto. Nel profilo dello sportivo per cui... i nostri profili della nostra reality. Assolutamente. Se invece l'allenamento è in ora tardiva, tipo si va in palestra alle 9, si finisce il tira lungo fino alle 11, poi si va a casa, assolutamente evitare la cena serale, no? Quindi si tratta di fare un pranzo giusto, di mangiare un piccolo spuntino, quello che in quel caso lì ci vuole magari per arrivare verso le 5, 5 e mezza, in modo da arrivare a fare l'attività sportiva che non si sia in carenza e si possa fare. Però a quel punto, ma lo spuntino a che cosa pensa lei quando mi parla dello spuntino delle 5? Penso dello spuntino delle 5, penso ad esempio a una manciata di noce mandorle con una fetta di pane, oppure a un mezzo panino integrale con dentro 2 fette di prosciutto e una mela. Ecco, queste scelte noi le facciamo, cioè questi ingredienti abbinati rispondono alla regola dell'equilibrio, dottor Speciani, così ciascuno può magari scegliere, certo. Però cosa ci deve essere? Ci deve essere una quota di carboidrati integrali, quindi a basso indice glicemico, come giustamente Carlo stava dicendo, che addirittura tiene anche un po' al dente, che è sempre ottimo, una buona cosa. Infatti. E, dopodiché, oltre ai cereali, ci sono delle proteine che possono essere un uovo sodo, dei gamberetti, delle mandorle, delle nocciole, che possono essere affiancate, e di fianco, stesso tipo di volume, un frutto o della verdura. A quel punto che sono fatto fibre, vitamine, sali minerali, eccetera. A quel punto abbiamo un pranzo, piccolo o grande che sia, che sazia, che non fa innalzare la glicemia e che consente una distribuzione graduale del rilascio degli zuccheri, e quindi non ti accentua la fame e consente il massimo della espressione anche dal punto di vista dello sforzo. Allora, qua stavo monitorando intanto Brava, i messaggi. Perché io non riesco a leggerli. Sì, abbiamo un po' di luce addosso al nostro monitor. Allora, c'è ovviamente, dottor Speciani, tutto il gruppone degli irriducibili della Barretta in borsetta per colmare il vuoto di stomaco, pacchetto di crackers. Nella borsa devo tenere, Elena da Bergamo, noci e frutta secca. Cuore denari per libro, scrive naturalmente, e poi vabbè, un ascoltatore Patrizio che dice a me non passano nessun buono pasto, e adesso Patrizio parleremo anche di lei. Il pranzo lo cucino io per i miei dipendenti, racconta Livio, oggi tagliatelle ai porcini. Però lui, andiamo, esatto, a lui diamo il nostro libro, così, proprio sulla fiducia. Se ci fa arrivare almeno una porzione, però. Un altro ascoltatore, un collega del nostro Valerio Rocchetti, sono un tecnico di messa in onda, pasto da casa, consumato in ufficio, nascosto in un cantuccio, pronto a scattare se c'è un problema o squilla il telefono, Elisabetta si porta lo yogurt. Insomma, qua mi pare che abbiamo ben rappresentato tutta la popolazione italiana nelle abitudini. E intanto andate sulla nostra pagina Facebook, completate il questionario che ha ideato per noi oggi il dottor Aquilar, perché poi ne parleremo naturalmente per capire che cosa rappresenta per noi la pausa pranzo. È socializzante, un momento invece che cerchiamo di svuotare per riempire, per fare degli hobby, per seguire le nostre, no, magari amicizie, le nostre relazioni. Certo. Sai che la pausa pranzo è un po' altro che discussa, ha molti eh? Significati. Mm-hmm. Mm-hmm. Allora, intanto io lo riporto sul terreno economico questo argomento, lo svilisco così come sempre, e saluto e ringrazio per essere con noi Monica Valente, giurista di Altro Consumo. Buongiorno, dottoressa. Buongiorno, Valente, grazie. Buongiorno a tutti. La sua pausa pranzo com'è, peraltro? La mia pausa pranzo finanziata dai nostri cari e buoni ticket, di cui appunto adesso andremo a parlare, però ogni tanto mi porto anch'io la schiscetta, infatti ho seguito con interesse i vostri consigli. Oggi è una di quelle giornate, dottoressa Valente, oppure oggi va fuori? Oggi fuori, non ce lo fa, non sono una gran cuoca, devo ammetterlo, quindi. No, anche perché lì, ovviamente, per rispettare tutti i criteri indicati dal dottor Speciani, la sera ci si deve stare con la testa quando si cucina, perché non è che possiamo sempre risolvere con le noci e con l'uovo, dottor Speciani. No, ma la sera la cosa bella è gustare, cambiano un po' le proporzioni. Noi siamo abituati mentalmente che alle 5 ci scatta il trip per mangiare anche le gambe del tavolo, e quindi si arriva arriva a cena mangiucchiando una serie di cose. No, io dicevo che in realtà dopo cena bisogna mettersi a cucinare per il giorno dopo. Però no, l'avanzo un po' rivisitato, rimescolate, voilà. Poi io sono un fautore delle uova sode, nel senso qua sono 12 alla volta nel giro di 5 giorni hai modo di... Allora, dottoressa Valente, facciamo una cosa, per non parlare 30 secondi dei buoni pasto e poi interrompere, faccio subito la borsa, mi tolgo questo pensiero. Mi sembra una buona idea. Approfondiamo questo argomento appunto del, in realtà facciamo un riassunto della situazione perché ce ne siamo occupati una decina di giorni fa, però vale la pena proprio in questa puntata appunto di ritornare un po' sulla questione che aveva generato un bel dibattito tra gli ascoltatori di Cuore Denari. Borsa, a tra poco. Cuore e Denari. La finezza dei suoi dubbi e la potenza delle idee che meraviglia il suo giubbotto. Si sbaglia. Anche Lucio Dalla si era occupato dell'argomento del pomeriggio in ufficio. Allora, noi torniamo a Cuore Denari in diretta da Expo nello stand nel padiglione di Cibus e Italia. 800 24 00 24 il numero verde a cui potete rilasciare le vostre testimonianze. L'azienda vi riconosce dei buoni pasto presso quali esercenti li utilizzate, li usate per fare la spesa, perché questo è l'aspetto centrale che è cambiato con le ultime novità normative. Allora, Monica Valente, giurista di Altro Consumo, prima di ridare la parola ai tantissimi ascoltatori che ci stanno disperatamente chiedendo consigli su come gestire dal punto di vista alimentare la pausa pranzo, perché anche c'è al bar, il dottor Speciani è pronto. Primo. E poi c'è gente che dice, ma insomma io faccio un lavoro di un certo tipo, c'è il nostro amico Francesco Piastrellista, c'è chi lavora nei cantieri, alle 10:30 hanno la voragine nello stomaco e quindi vorrebbero qualcosa di più sostanzioso in mattina. Qualche ricettina. Abbiamo anche la ricetta per conquistare le donne che ci ha dato un sessantenne brillante. Giovanissimo. Che è giovanissimo. Per cui se volete anche la ricetta per fare centro, abbiamo anche quella. Abbiamo quella. Allora, Monica Valente, Altro Consumo. 2.300.000 lavoratori in Italia fanno uso dei buoni pasto, però non tutti conoscono direttamente questo sistema, se non altro come le aziende devono gestire la distribuzione appunto del buono pasto. Ci racconta che cos'è questo sistema per l'appunto, che cosa è cambiato nella normativa di recente. Sì, a tal proposito inviterei gli ascoltatori a visitare il nostro sito, il sito di Altro Consumo, dove noi illustriamo tutte le novità in materia di buoni pasto. Ottimo. E la prima lo mettiamo vera... subito sul nostro, sulla nostra pagina Facebook. Assolutamente, così sì, velocizziamo le operazioni. Esatto. Ottimo. Venite a trovarci, perché in 448 vi spieghiamo cosa è veramente cambiato e soprattutto arginiamo gli allarmismi degli ultimi tempi. Perché la prima vera e unica novità che riguarda i buoni pasto riguarda la tassazione dei buoni pasto elettronici. L'avevamo già accennato l'ultima volta che ci siamo sentiti. Sì. Si alza la soglia di detassazione da 5,29 a 7 euro. In poche parole, i lavoratori che ricevono i buoni pasto elettronici avranno qualche centesimo di euro in più ogni mese, centesimi che prima versavano in tasse. Quindi questa è la vera novità, l'unica novità, ed è stata introdotta a luglio scorso. Per il resto il sistema rimane invariato, nel senso che esistono buoni pasto cartacei e buoni pasto elettronici. Ovviamente si spera che i buoni pasto elettronici si diffondano, e i benefici fiscali vogliono proprio andare a incentivare la sostituzione del cartaceo con l'elettronico, perché l'elettronico, oltre ai benefici fiscali, porta con sé anche altri vantaggi. Qual è il tipo di confusione che si è generato? Perché mi ricordo il più lampante, dottoressa Valente, che era quello relativo al fatto che si era diffusa questa voce che chi ancora continua a ricevere dal datore di lavoro il buono pasto cartaceo e ne fa un uso anche per fare la spesa, ad un certo punto non fosse più possibile utilizzarlo con questa finalità. Da questo punto di vista è davvero cambiato qualcosa o no? No, nel senso che bisognerebbe trovare la persona che ha iniziato a mettere in giro questa notizia, nel senso che la norma che regola l'utilizzabilità dei buoni pasto, una norma del 2010, non è stata modificata. Vero è che questa norma parla di non cumulabilità, cioè dice che i buoni pasto non sono cumulabili, però nel senso di non poterne portare 5 alla stessa cassa nello stesso giorno in cui fa tutto lo spesone, in teoria, ecco. Poi diciamo che ci sono dei centri commerciali che lasciano cumulare in questo modo, altri invece che invece non permettono e ne fanno utilizzare solamente uno al giorno. però il centro commerciale che lo stabilisce. In realtà quello che vedo succedere nella pratica, nella prevalenza dei casi, è l'accettazione di più buoni pasto insieme, perché giustamente la norma è sempre stata interpretata ed applicata in questo modo e così deve continuare ad essere. La non cumulabilità va intesa nel senso che il lavoratore ha diritto al buono pasto per giornata lavorata, poi come li spende deve essere sono una fatti scelta. Suoi. Se io oggi infatti ricevo 23 buoni pasto per il mese di settembre e li spendo tutti oggi, vuol dire che per i prossimi 22 giorni farò la spesa mia. Che fame! Che era quello che avevamo detto anche nell'ultima puntata, quando avevamo invitato per esempio il mondo degli esercenti, che invece richiamava l'attenzione sul fatto che più di uno alla volta preferirebbe che non si utilizzasse. Detto questo, dottoressa Valente, adesso dobbiamo dare spazio ai tantissimi ascoltatori che ci chiedono suggerimenti dal punto di vista nutrizionale della pausa pranzo. La ringrazio per la sua ottima sintesi della questione. Per chi grazie volesse capire qualcosa in più, ridiamo naturalmente l'indirizzo di Altro Consumo, che ha molta chiarezza su questo aspetto. Noi lo veicoliamo attraverso i nostri social, per cui questo era quanto andava detto. Sono stati detassati i buoni pasto elettronici. Per i cartacei non cambia niente. Se volete continuare a farci la spesa, potete farli, potete cumularli, anche se magari un po' l'esercente ha anche il diritto di farlo, storce un pochino il naso, magari non utilizzateli tutti e 23 nello stesso giorno, perché tanto insomma è sempre risparmio utilizzandone uno, due, tre al giorno, ecco. Grazie molte. Allora dottor Speciani, in mensa, al bar, al ristorante o da casa, quali sono le caratteristiche di una pausa pranzo a regola d'arte? Le abbiamo anticipate, deve essere equilibrata nei suoi componenti, ma ci fornisca tutto quello che abbiamo bisogno per continuare la giornata, con tutte le energie adeguate, senza appesantire né la digestione né il portafoglio. Allora, la nostra pausa pranzo, iniziamo. Per chi va al bar, ecco, non è semplice, dicevamo, trovare delle offerte che adeguate per la nostra nuovo cambio, no? della nostra dieta, che è più attenta al consumo di fibre e quindi di prodotti integrali, di un buon apporto di verdura, di frutta. Esatto, io credo che questo sia il punto focale e con un occhio molto stretto anche al costo posso dire che bisogna mettersi in borsetta o in valigetta o in tasca fondamentalmente, sì, qualche cosa di simpatico. E il suggerimento è questo: uno, due carote messe in borsa al mattino, una mela, una pesca, un frutto di stagione, un gambo di sedano, qualunque cosa di questo tipo, consente di iniziare, quando uno dice ok, tra poco vado a mangiare qualcosa al bar, sono di corsa, di sgranocchiarsi un gambo di sedano o piuttosto che non mangiarsi una carota o una mela, o quello che sia, che è un elemento iniziale di, io lo chiamo crudo, vivo e colorato, cioè qualcosa di positivamente vegetale che possa ridurre il senso della fame, apportare un apporto di stimolo, riduce le reazioni di intolleranza, eccetera, riduce l'appetito. Secondo, non arrivare assetati al momento del pasto. Abbiamo già spiegato altre volte che c'è l'importanza di avere il punto della fame e della sete sono molto vicini, quindi bevendo quello che noi spesso scambiamo come fame, in realtà sete. È sete. Quindi bersi un bel bicchierone d'acqua verso quando sono le 11:30, mezzogiorno, l'una, quando uno sta per andare a mangiare o deve passare in un bar, perché a quel punto si ha una riduzione di quel senso di aggressività della fame, se è legato in realtà ad uno stimolo di tipo idrico e non uno stimolo invece di tipo metabolico. Quindi o frutta o verdura e acqua. Per dare il benvenuto alla pausa. Dopodiché si va in pausa e io voglio fare, per dare un'immagine di riferimento, quello che deve essere fatto per chi va al bar e pochi minuti fondamentalmente. Bravo. Allora, qual è l'elemento? Perché mediamente oggi si trova purtroppo del pane bianco che viene discusso. La cosa più semplice è sempre un panino o un tramezzino o qualche cosa di questo tipo. Allora, parto dal fatto che se troviamo un bar simpatico, che magari è quello che abbiamo stimolato, che inizia a fornire del pane integrale, io vedo che nei bar vicino ai nostri centri dove frequento o passo, man mano iniziano timidamente ad apparire. E si scopre che quei panini spariscono in modo assolutamente rapido perché incontrano il favore delle persone. Allora si cerca un pane integrale, quando non c'è l'importante è che ci sia una base di carboidrati e il panino ovviamente è quello a cui l'italiano medio è più abituato, però a quel punto mancano delle fibre, per cui bisogna insieme metterci o un frutto o qualche cosa, una banana che contiene indubbiamente anche mangiata a fianco, che contiene della fibra, o della verdura, o un piatto di insalata a fianco che possa essere richiesto. Il panino che si può fare con dentro il pomodoro, l'insalata, cioè richiedere non un pezzettino di carota tagliata alla julienne, ma una corposa quantità di verdura all'interno, che quindi dia anche corpo e volume al panino stesso, e una scelta di tipo proteico. Per chi è carnivoro può essere una della carne, del prosciutto; per chi invece non vuole mangiare carne possono essere sicuramente dei gamberetti, possono essere un uovo sodo che può essere tagliato insieme e aggiunto. L'uovo sodo a volte, e questo è il mio suggerimento che do a molti miei pazienti che hanno questo tipo di problema. È un passepartout. È un passepartout, uno ce l'ha in tasca avvoltolato, cotto, e può girare tranquillamente per un paio di giorni in borsa, ben fasciato in una carta, in una carta plastica specifica, e a quel punto, quando c'è bisogno, uno se lo tira fuori e lo mangia insieme con il proprio panino. A quel punto abbiamo ricostruito un bel bilanciamento tra la parte di carboidrati, la parte di proteine e la parte di frutta e verdura. A quel punto il panino masticato, perché bisogna masticarlo, questa è una delle cose che chiedo, fermatevi, se per caso ci avete da mangiare poco e avete pochi minuti, però quei 6 minuti, 5 minuti dedicateli a fermarvi, a mettere il, come si dice, le gambe sotto il tavolo, no, però il sedere su una seggiola almeno, fermatevi un istante, respirare e masticare correttamente, perché una cosa trangugiata genera sicuramente, certo, degli stimoli di pericolo che vanno contro quello che abbiamo chiesto. Perché la posata si chiama posata per un motivo, lo sai che io ormai questa proprio incisa. È solo lo zucchero che lo metto in testa, la devo. Però allora, visto, dottore, 8... che lo metto nel caffè tranquillamente senza nascondermi da lei. 800 24 00 24, raccontateci che tipo di pranzo fate. Allora, tra poco, perché sono le 11:45, molte persone staranno già accarezzando l'idea. Bicchiere d'acqua, portare... ecco, questo è il momento di bere un bel bicchierone d'acqua, eccoci, gasato o non gasato, pronti, del rubinetto, come volete, di mangiare anche un po' magari il frutto, la carota che vi siete portati da casa. So che molti storceranno il naso, ma provate almeno per una settimana e poi sapete, no, che un po' misurate la differenza. Certo. Adesso sono le 11:45. C'è il traffico e poi la batteria delle domande degli ascoltatori e poi naturalmente ospite, i commenti del professor Aquilar, che è pronto a rispondere ai vostri profili, esatto, e a commentarli. Vi anticipo che Graziano e Danna sono pronti anche con la risposta al quizzone, perché quando appena abbiamo lanciato il libro del metabolismo si sono buttati a pesce sulla risposta. Tra poco. Fluentis, il gestionale che in un'app ti guida nella crescita del business. Scoprilo, fluentis.com. Vi presenta Cuore e denari. Beh, sembra impossibile, ma per alcuni, qualcuno la pausa pranzo è anche questo, telefoni che squillano. Noi la facciamo in ufficio, io e te, così. Sì. Mail che continuano ad arrivare, colleghi che ti chiedono un'informazione. Esatto, infatti, e quindi è la tentazione magari di continuare a fare un lavoro che era stato iniziato, non riusciamo ad interromperlo. Allora siamo che si lì, fa? Si mangia davanti al computer. Esatto, e rimane tutto qua, no, sul groppone, per cui anche queste abitudini in realtà dovremmo avere il coraggio un po' di combatterle. Magari facciamo la piccolina, però alziamoci dalla sedia. Oppure c'è chi dice: sai cosa ti dico, io non ho fame, faccio una bella colazione, voglio uscire un po' prima, mi porto avanti e continuo a lavorare, magari poi insomma sgranocchio due noci, una mela, un pacchetto di cracker, molti dicono, ai ai ai, dottor Speciani, ai, questo ai, non piace. Cracker integrale. Allora, come anticipato, in linea con noi abbiamo il piacere di avere il professor Francesco Aquilar, che è presidente dell'Associazione Italiana di Psicoterapia Cognitiva e Sociale, nonché colonna del nostro Daily Lab. Buongiorno professore. Buongiorno, buongiorno a tutti i nostri ascoltatori. Si sta preparando anche lei per la pausa pranzo a Napoli? Certamente. È tutta un'altra musica. Ma lei ha fornito 6 alternative ai nostri ascoltatori per stimolarli ad indicare un po' le loro preferenze. Quindi c'è chi fa la pausa pranzo, un pranzo normale, la piccola pennichella, chi fa l'attività fisica e magari si mangia uno snackino al volo, un panino invece socializzante con l'amica o per fare due chiacchiere. Esatto, noi e te non l'abbiamo ancora mai fatto, col panino abbiamo magari fatto dell'altro. Oppure chi dice: va bene, mangio poco, in silenzio, stacco proprio la spina, sto un po' per i fatti miei, nessuna pausa, come anticipato, finisco prima di lavorare e me ne vado, oppure la mia pausa è su internet, con i social network, mentre sto su internet poi vedo, magari spizzico qualcosa. Professor Aquilar, tanti sì, profili, tanti modi di fare le pause. C'è una grande variabilità individuale ed è legittima qualsiasi scelta in questo momento, perché alcuni hanno bisogno di ricominciare la giornata da capo, che sono quelli del pranzo normale con la piccola pennichella. È come se dovessero spezzare la giornata in due parti, altrimenti non riescono a recuperare l'energia. Altri invece, nel momento in cui dovessero spezzare l'attenzione, la perderebbero e impiegherebbero moltissimo tempo a recuperarla, e questi sono quelli di nessuna pausa. Quelli invece che hanno un bisogno più forte di relazioni sociali ne approfittano per colmare in qualche modo questo bisogno in quel tempo. E queste tre variabili vanno tutte bene, e l'importante è che ognuno trovi quella che gli calza meglio e che gli dà maggiore serenità oltre che maggiore energia. Dovete sicuramente fare un incontro, sì, dottor Speciani, insieme al professor Aquilar, e profilare delle pause pranzo intrecciando psico e metabolismo e nutrizione. Certo. Che potremmo dite? Fare una cena prima, che così risolviamo delle una tematiche. Cena. Noi veniamo cucina giù a Napoli. Cucina, ah no, io, no, io cucino volentieri. Ieri ho fatto un risottino con zucchine, zafferano e pomodorino secco. Buono. Ho usato il riso, però no, no, devo no. dirglielo. Per no. il risotto io uso il carnaroli, mi spiace. Esatto. La proteina dove sta? La proteina l'ho mangiata dopo quindi è venuta una cosa bene. Molto buona. Professor Aquilar, allora le indicazioni per i nostri ascoltatori che stanno rispondendo su Facebook al suo invito, e naturalmente con l'obiettivo anche di farsi dare qualche dritta, perché noi continuiamo magari e perseveriamo in un'abitudine e poi non capiamo che forse, non individuiamo che forse proprio cambiando quella abitudine potremmo stare meglio. Professor Aquilar, che possiamo fare? Non l'abbiamo sentita, mi scusi. No, professore, scusi, noi ce la siamo persa. Mi fa un... Ricominciamo. Sì, dicevo, l'importante è appunto scoprire qual è il proprio ritmo più adeguato. Una cosa carina potrebbe essere quella di esplorare una volta ogni tanto le altre modalità e vediamo che cosa succede se facciamo nell'altro modo. Quindi chi per esempio fa di solito pranzo normale piccola pennichella, che succede se una volta decide di passare invece la pausa pranzo facendo l'attività fisica oppure dedicandosi a rapporti sociali sia concreti che virtuali? Perché in realtà in questo caso la nostra niente. Soggettività si scopre anziché deciderla astrattamente. Anche in questo caso vedi che il professor Aquilar ti serve la battuta su un piatto d'argento, anche per la pausa pranzo diversificate. Non c'è niente e quindi da fare. La un d'oro. Giorno la fate al bar, un giorno con gli amici, un giorno in mensa, un giorno per i fatti vostri, la un giorno la settimana passa più serenamente, abbiamo lavorato più volentieri, magari siamo stati anche più produttivi, il che non guastano, perché magari qualche volta anche nel tentativo di essere particolarmente efficaci, efficienti nel mondo del lavoro abbattendo la pausa pranzo, ovviamente risulta poi non si ottiene assolutamente. Dottor Speciani, diversifichiamo, perché noi tendiamo a non cambiare, e quindi anche questa, la pausa pranzo monotona sempre fatta allo stesso modo con gli stessi ingredienti, con lo stesso piatto, potrebbe essere uno anche dei fattori che possono scatenare o slatentizzare, provocare l'infiammazione da cibo da cui abbiamo dedicato sì. tante questo puntate. L'abbiamo visto più volte, proprio la ripetizione sistematica porta effettivamente ad una reazione attività nei confronti del cibo. Noi siamo fatti, almeno sul piano alimentare, per diversificare. Perché, sai, magari uno dice, se ma io mangio sempre il riso in bianco, esatto. perché sennò poi non digerisco. Esatto. E allora non cambi mai e poi alla fine ti intossichi. Anche perché continuare diventa... a mangiare lo stesso alimento, abbiamo visto tante volte, che in qualche modo ci ingolfa un certamente. Po'. Dove andiamo? Andiamo subito e direi, siccome ci mancano due minuti prima dei saluti, io direi di sentire se al sì. quizzone sono stati reattivi i nostri ascoltatori. Vai, allora, sentiamo. Ribadiamo 5 secondi la domanda. La domanda Speciani. È... Vi trovate improvvisamente a dover saltare un pranzo, qual è qualcosa da avere in tasca, in borsetta, dovunque per poter superare questa parte, il pranzo saltato, come dire, nel migliore dei modi? Graziano da Brescia, qual è la sua ricetta? Graziano da Brindisi, la mia ricetta è questa. Ah, da Brindisi. Picchi secchi con mandorle, secondo me non c'è di meglio, perché unisce al carboidrato, fibre, sali minerali, molto magnesio, potassio. e quelle proteine con le mandorle. Gliene diamo due, gliene diamo due di ripieghi. Graziare è una grazia. Grazie. Veramente è un ascoltatore evidentemente anche molto attento. Grazie Graziano, sentirei anche Rosella da Milano. Rosella, benvenuta. Sì, benvenuti, grazie, grazie a voi. Volevo dire una cosa molto velocemente. Io in estate mi porto le mandorle, le nocciole, la frutta secca in pochissima quantità, però faccio la rappresentante, per cui mi preparo sempre carote, finocchi, sedano, queste cosine qua. Invece in inverno prediligo le mandorle e la frutta secca, insomma. Anche perché noi rappresentanti abbiamo un grosso problema, non abbiamo mai l'orario fisso. Perché non sai mai quando puoi mangiare, devi sempre portarti qualche cosa. E poi bravi anche a lei. Arriva il libricino del metabolismo da portare in giro. Sara da Roma in 5 secondi, Sara velocissima. Ci stanno decapitando, vada Sara. La trasmissione, le noci sicuramente, un pezzetto di cioccolato fondente. Questa è la mia brava, ricetta. Brava, brava, brava. Ci sta, brava. Ci sta, brava. Tre vittorie. E possiamo aggiungere anche un uovo. Dai, quello da portarsi dietro ci sta benissimo. Che bella batteria di domande finali. A Mario della provincia di Pavia, che ci voleva raccontare che non riesce a mangiare niente a colazione e beve solo un bicchiere d'acqua. Poi lo sgrideremo in privato. Grazie. Bene. Allora, abbiamo terminato? Noi abbiamo terminato, adesso lasciamo la linea al giornale radio. Grazie dottor Speciani. Grazie per questa voi, bellissima puntata di reinizio del palinsesto autunnale. Noi torniamo qua domani mattina, altra scarpinata per tutto il decumano, perché noi non prendiamo la navetta ma camminiamo. A domani, buona giornata a tutti. E adesso viaggio nel mondo del biologico.